Raga, Mad Boys, Bolzaneto, ci sono anche io ora. Continuate così. Questo mondo di merda, servono gente come voi. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi, Stefanino. Ehi, si scalda la situazione, la tensione alta, ansia. Tengo nervi saldo, ci provo se la volante si affianca. O lo video, non potete provare quel brivido che sale. O il senso di sollievo quando ti dicono grazie può andare. Quante infamate, cantate ma in caserma. Per rasare il pelo che ho sul petto uso il tagliaerba. Fate quanta merda qui da me, quando al baro io al bar. Ovvio che io non ragioni come te. Conosco il mio limite, tendo sempre a superarlo. Devi sempre sapere quando è che devi smettere. Non potete competere col cane più bastardo. Attenzione, alta tensione, testa calda come un cannone. Cazzone, sotto pressione, come un subacqueo. Cerco aiuto in Dio, ma anche lui è ateo. Non mi dà risposte, a spasso nella notte. Rocce, botte, mignotte, brucio i ricordi, molotov cocktail. Brucia tutto, la mia anima è rogo. Per salvarmi non ti basta un eterno riposo. Sembra alta tensione, il mio stato è in allerta, in apprensione. Si alza la pressione, se la porta non si è aperta, butto giù il portone, questa cosa è certa. Cercami tra le persone che da questa situazione cercano coperta. Cerca e lì mi troverai, tra mille guai mai abbastanza. Capirai, assegno come Mackay, avanza. Infattanza non conviene, vai in ansia con le sirene. Niente catene, è andata bene, ma era solo un'ambulanza. Alta tensione si respira per strada, alta tensione questa vita non paga, alta tensione tra e fra questa notte, capirai chi ha fotto oppure chi si fotte. La tensione sale, non sei un criminale, togliti la maschera, non siamo a carnevale, frate. La tensione sale, non sei un criminale, uccidi il tuo alter ego, porto i fiori al funerale, frate. Alta tensione, come quando sorge un'incomprensione tra due persone. Si coglie uno sguardo di disapprovazione. Io con la visa una visione, te con la divisa hai scelto un'altra vita. Una sostanza positiva in circolazione. Datemi le fish, ti scarto Thierry Henry. Schiaccio Neil, faccio refill. Te invece vieni catturato come Bean. Corro su dei filamenti elettrici, controlli scettici. Ogni giorno con elementi pessimi, non intrometti. Ne giro una per rilassarmi, serve calma, già non ne ho tanta. Sempre qui a stressarmi, fumo questa poi di botto un'altra. Sento l'ansia che sale quando c'ho l'onere di seno. Sguardo sereno, alta tensione che sento sincero. Non credono se dicono so niente sul serio. Ma a volte sono fredda come la neve. Chi si fa nervoso e beve, ma non sa quali altre possibili conseguenze porterà. C'è chi non ha forze cede, chi la morte teme. A chi in volto è triste al solo pensiero che un suo caro mai più rivedrà. Alta tensione si respira per strada, alta tensione questa vita non paga, alta tensione tra e fra questa notte, capirai chi ha fotta oppure chi si fotte. La tensione sale, non sei un criminale, togliti la maschera, non siamo a carnevale, frate. La tensione sale, non sei un criminale, uccidi il tuo alter ego, porto i fiori al funerale, frate.